Grazie.

nazionale d'appalto relativa alla realizzazione della centrale mira a scegliere le aziende che hanno delle precedenti esperienze nel campo dei progetti dell'energia solare perché effettuino il disegno, il finanziamento, la costruzione, l'attivazione e l'attivazione del progetto lungo un periodo che va da 20 a 25 anni. Si tratta di uno dei progetti del piano quinquennale 2012-2017, finalizzato a portare al 20% la percentuale dell'energia rinnovabile del totale dell'energia prodotta entro il 2020. Per la discussione delle negative e catastrofiche conseguenze della costruzione della megadiga della rinascita sul Nilo Azzurro, rappresenta un passo positivo, affermando che il dialogo e la comprensione sono l'unica via per risolvere tali crisi. Qualsiasi atto di sviluppo sia in Etiopia che in qualsiasi paese del bacino del Nilo, a condizione che non muoia gli interessi idrici dell'Egitto e i suoi storici diritti nella sua quota delle acque del Nilo, ha messo in evidenza ampio. L'Egitto ed Etiopia realizzeranno un'analisi e studi congiunti sui possibili impatti della diga della rinascita. Lo hanno annunciato il ministro degli esteri dei due paesi in una conferenza stampa ad Addis Abeba nel primo segnale di disgelo. Le due parti si sono concordate per tutte, una politica e una tecnica, al fine di risolvere il problema prendendo in considerazione che la quota egiziana del Nilo di 55 miliardi di metri cubi non soddisfa il fabbisogno quotidiano dell'Egitto e la sua necessità di crescita e che il paese è entrato in zona di costante come il Tahiti, la quale sarà aumentata dalla costruzione di tale diga. uno per considerarsi una donna alla fine del tempo. Un infrastruttore che pensi in futuro di vedere la portata del genitore. Anche se non c'è neri di un'unica, sostenendo che la Lega non limiterà semplicemente la fortuna del genitore, dopo tutto l'acqua del Nilo è una questione di sicurezza. Il Nilo, con i suoi 6.471 km di lunghezza, è il secondo corso d'acqua del pianeta dopo il Rio della Mata, e bagna Burundi, Egitto, Eritrea, Etiopia, Kenya, Congo, Ruanda, Uganda, Sud, Sudan e Zambia. Il fiume Cima è stato distribuito da due affluenti principali, il Nilo Bianco, che ha la sorgente del lago Vittoria, e il Nilo Azzurro, che nasce nel lago Tana in Etiopia. Quest'ultimo è per l'85% della portata, il Nilo Bianco solo al 15%, perché la maggior parte delle sue acque sono perse dei paludi o evacuano nelle zone da attraversare. Sempre con i dipendenti e su mostre li ombreggiamo. La gestione delle acque di Nilo è regolamentata da due trattati. Il primo è stato nel 1929, fu stipulato dall'Egitto e dalla Gran Bretagna per conto del Sudan, allora sua colonia. L'intesa riconosceva all'Egitto il Sudan il diritto storico naturale all'uso delle acque del fiume, vincolando gli stati a monte del bacino. Nel 1956 diventato finalmente il Sudan, sarà pubblicato per farlo iniziare la ripartizione delle risorse del Nilo. Il trattato firmato nel 1959, tuttora in vigore, assegna all'Egitto 55 miliardi di metri cubi e al Sudan 18 miliardi. Si calcolano che in 5 anni la quantità di residui passerà da 400 milioni di persone a 700 milioni. Ciò accrescerà lo sfruttamento idrico del bacino, che tra l'altro è destinato a indebolirsi a causa del surriscaldamento globale. Un peso di pronostico è previsto. Se parliamo di 109 ogni 300 studenti un paio di 322 metri cubi di acqua l'anno, nel 2025 previsto che supererà i 337. Ciò significherà un drastico ridimensionamento del settore primario e connesso frequenti carestie e compagnia di elettricità. Il sussurro è poi diventato indipendente nel 2011, ha rivendicato una quota di acqua che il trattato del 1859 assegnava a Cuba. Partito da una sorta di monopolio di carestie energetiche e economiche. una strana perspettiva. Penso che voi vi trovate un momento in casa al vostro programma per questo spirito, sentiamo l'ottimo notizie sportive. Sono più bella di Costa, l'Egitto per cui si vuole trovare il grande ritorno di Costa, di cui sei nazionalmente preso. L'Egitto ha sempre un po' di vero, per il mondo può avere un piede di calcio per me, che attualmente è corso Sofia. E lo scudato, gli accademi spera per sentire l'Egitto nella qualificazione Europa 2014 in Brasile. Si tratta di prima gara d'oro per la studente di Rizzo Pazzi e gli egiziani sperano di vincere 30 ore di medaglia per la fine della competizione dei tali giochi. La egiziana di calcio per tanti affronterà domani mercoledì 26 giugno a San Paolo sulla Rachena nel secondo turno delle competizioni mondiali che andrà a permettere in Turchia fino al 13 luglio. Costruito nella montagna, dove la famiglia Santa è rimasta per tempo una caverna, che fu trasformata nella costa per l'altare della chiesa della Vergine Maria, costruita all'estremità occidentale del monastero. La pietra dell'altare, citata dalla profezia, è la pietra sulla quale si riposava Gesù Bambino durante i sonnambuli. L'intera area e i posti circostanti sono luoghi sacri dei corpi, chiamati anche la seconda Betlemme. E affrontando tanti pericoli come le bestie feroci che minacciavano la vita l'abitudine dei viaggiatori era di viaggiare in gruppi, perché senza la posizione di un convoglio regolare la speranza di salvezza era tutta. Tutte le tradizioni orientali ed occidentali sono d'accordo sul fatto che la Vergine Maria cavalcava l'asino e Giuseppe gli camminava accanto tenendolo per la cavezza secondo le usanze orientali. Yeah.